我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏女高音歌唱家安琪拉·乔治乌演唱的著名歌剧中的咏叹调。 Oh la vien fuori d'ora in fortunare. O soave fanciulla, Thank you. Oh. Seguendo te cambiare se ogni altro amor non può, non può già mai il primiero uscir dal cor. Se sarà, se sarà, non può uscir dal cor. No, non può, non può uscir, uscir dal cor. No, non può il primiero uscir dal cor. Uscir dal cor. No, non può il primiero.

Thank you.

vostri piedi tutte le grazie della primavera。 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。